140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Grand Hotel Timeo, Taormina. Quattro ragazzi nella Napoli del 1999 e di oggi. Racconta le loro vite il documentario Le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. Noi nel 99 abbiamo realizzato un documentario raccogliendo le testimonianze di quattro protagonisti, due maschietti di 12 anni e due signorinelle di 14, chiedendo loro come si immaginavano nel futuro. E nel casting che abbiamo realizzato quasi tutti dicevano: i maschi il calciatore, le femmine la modella. Gli unici quattro che già sapevano che non sarebbe successo questo nella loro vita sono quelli che hanno rapito il nostro cuore. Li abbiamo seguiti, avevamo pochissimo tempo però, perché già la messa in onda era decisa. Dal punto di vista economico era un vantaggio, dal punto di vista artistico un po' una frustrazione. Nel corso degli anni abbiamo sempre desiderato di colmare questa lacuna che si era creata. Abbiamo provato in vari modi, anche due anni dopo, creando un laboratorio dove abbiamo insegnato loro a usare le telecamere, però la cosa poi non è andata a buon fine e finalmente dopo 10 anni, complice la nostra coproduttrice Antonella Di Nocera, che nel da ragazza appunto ha fatto da location manager e poi è diventata una piccola produttrice, siamo riusciti a rintracciarli, non li avevamo mai definitivamente abbandonati e abbiamo cercato di capire cos'era successo della loro vita e della città nella quale vivevano, anche se poi quello che abbiamo visto non è secondo noi circoscrivibile all'ambiente in cui è stato realizzato il film, perché tocca anche delle tematiche più universali. Ehi, buongiorno! Hai capito chi lo sono? Chi lo sono? Ma come ci ha fatto con te, Fabio? Oh no! Che si sai fare tu? Come stai accattivato? Piano piano. Passo di vino. Aspetta, la voce che sigaretta. Ha fumato. Ancora ti arrabbi lui che già stai con la sigaretta a bocca. Ma io ti posso mai mantenere a te, Fabio? Si da cattano giurato che hanno murato io e ti aggiorno i soldi. Voglio capire. Ma magari sono state a buffo pure, mamma, eh? Almeno nascevo le femmine, facevo le... Queste bottane. Tocca delle tematiche universali, però inevitabilmente quando si parla di Napoli si parla di una realtà allo stesso tempo molto affascinante e pericolosissima poi da raccontare. Pericolosissima da raccontare perché c'è una tendenza innata ai napoletani nel mettersi in scena, quello che dice sempre Raffaele La Capria, che la napoletanità che gli stessi napoletani tendono a mettere in scena rischia di essere autodistruttiva. Però siccome nel nostro lavoro la cosa più importante è la relazione con le persone che si raccontano, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere i ragazzini e di stabilire con loro una relazione abbastanza profonda che, pur avendoli visti in maniera sporadica all'arco di 10 anni, quando li abbiamo rincontrati quella relazione c'era ancora, non c'era bisogno di ricostruirla. E se c'è questa relazione forte di fiducia reciproca è più facile eliminare la tendenza all'autorappresentazione esagerata, diciamo. Come mai dovremmo prenderti? Vabbè, per le mie capacità, come tu hai detto, comunicative. Sì. Enzo, ti direi di parlare un po' più lento. No, più lento, proprio come parlano loro, cioè come essere molto sofisticati. Che non conoscono niente, A Napolegno, i termini più semplici, che loro capiscono subito. I ragazzi hanno accettato tutti di farsi, riprendere di nuovo, di raccontarsi di nuovo. Sono stati tutti disponibili, ma con meno entusiasmo, perché da ragazzini, vedendo la telecamera, si aspettavano chissà che. E quindi poi noi siamo stati, credo, molto onesti nel fargli capire che non era una di quelle trasmissioni televisive per cui ti si cambia la vita dopo che vieni scoperto, il talent show, il Grande Fratello, eccetera. Era proprio un gesto di fiducia reciproca, dove noi mettevamo il nostro fine nelle loro mani e loro mettevano la loro intimità nella nostra. E questa consapevolezza loro, che all'inizio ha fatto sì che ci servisse più tempo per coinvolgere, alla fine ci è stata molto utile, perché abbiamo raccontato alle persone consapevoli di essere raccontate, quindi per noi è stato molto positivo questo, e quindi sono stati più complici dopo. E quando abbiamo finito il film l'hanno visto tutti, sono stati, anzi già prima del montaggio l'abbiamo fatto vedere un premontaggio e si sono tutti riconosciuti in quello che abbiamo raccontato di loro. Alcuni hanno usato il film come uno specchio e infatti ci dicono che il film gli ha cambiato la vita, non perché sono diventati ricchi e famosi, ma perché guardandosi hanno capito delle cose di loro. E una ragazza ha ripreso in mano la sua vita scappando da un contesto difficile e cercando con molta dignità di ricostruirsi il proprio futuro. E il protagonista che aveva abbandonato i suoi sogni di fare il musicista grazie al film è tornato a cantare e tra l'altro stiamo realizzando un piccolo spettacolino che chiamiamo Cineconcerto, per cui lui si esibisce alla fine del film e quindi in questo senso poi speriamo di essergli stati utili, perché poi quando fai un documentario su attori, giornalisti, musicisti, il film gli fa pubblicità. Sulle persone normali i registi vanno ai festival e loro rimangono lì, quindi cerchiamo almeno di fargli restituire un po' della loro generosità. E anche gli altri personaggi si sono rispecchiati. Poi diciamo che adesso, andando avanti, vogliono viversi nuovamente il nuovo futuro, per cui insomma il film gli fa anche toccare rivedere delle corde dolorose magari del passato, però sono nostri coreggisti, diciamo così. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.